Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, bentrovati, martedì sera, Brussellando, Mary D ai microfoni in compagnia di Georges, il nostro mitico Georges Laurent, e Fiordaliso, che più tardi si occuperà dell'angolo del libro. In regia Danny M, e siamo nuovamente qui questa sera. Come no, è già mitico, cioè, vuol dire che non esisto. E tu sei il nostro ectoplasma. Esatto, tu ci sei, non ci sei, d'altronde hai tutte le soluzioni a portata di mano, quindi qualcosa di strano da qualche parte c'è, donde quindi anche la miticità. Mamma mia, quanti complimenti questa sera. Mamma mia. Questa sera è una puntata un po' diversa dal solito. Come sapete, Brussellando, come qualcuno mi dice ancora e mi scrive, alla terza edizione. Ringraziamo ovviamente tutti coloro i quali rendono possibile il nostro successo. E abbiamo deciso di cambiare leggermente i contenuti della nostra trasmissione e cercare di raccontarvi un po' più di Italia qui, in particolare a Bruxelles. E c'è un tema che ultimamente pone l'Italia nuovamente al centro dell'attenzione. Non è un bel tema, anche se potrebbe essere invece un bel tema, o forse le ragioni che ci inducono ad essere tra gli ultimi, tra i primi, poi vedremo. Non è sicuramente dei più piacevoli, però fatto sta che la libertà di informazione sta diventando un tema abbastanza discusso. Aia. In Italia. Aia. E come vedremo non solo in Italia, in Europa e anche al di fuori dei nostri confini europei. E questa sera Brussellando ha deciso di parlarne con due giornalisti. Aspetta, ferma, non parlare prima dei giornalisti, perché forse dobbiamo dire che è una cosa, è la prima volta che facciamo qui a Brussellando un tema così, così caldo, se vuoi, come questo, e anche attuale, perché è un tema di estrema attualità. Però corre l'obbligo di dire, come sempre, che Brussellando è una trasmissione che è cominciato con un viaggio. Questo viaggio continua, non si ferma il viaggio. E in questo viaggio noi incontriamo persone che ci parlano di quello che è la loro esperienza, il loro viaggio. Quindi oggi incontriamo questi due giornalisti. Quindi non è, se qualcuno vuole già cominciare da questo a vedere cose strane su Brussellando, no, lo diciamo di subito, questo è Brussellando, questo è il viaggio, l'agenda culturale, ciò di cui parliamo. Oggi affrontiamo un argomento attuale, così come affrontiamo tutti gli altri argomenti. Giustamente, come sottolinea George, Brussellando non intende assolutamente prendere posizione sull'argomento, ma intende raccontarvi di storie che possono in un certo senso anche riguardare questo tema. Tant'è che abbiamo qui per la prima volta, tra l'altro, a Brussellando in diretta, perché l'abbiamo già avuto una volta ospite, ma al telefono, Maria Laura Franciosi. Che bello! Buonasera! Ciao Maria Laura. Maria Laura è un bellissimo esempio, tra l'altro, di integrazione europea, e credo che possa raccontarci, volendo, non solo il suo cammino, il suo viaggio, ma anche come è cambiata l'informazione e come è cambiato il modo di fare informazione, probabilmente nell'ultimo trentennio. Maria Laura è stata corrispondente per l'ANSA, prima in Italia ovviamente, poi in Gran Bretagna, per finire poi parte della sua carriera qui a Bruxelles, e non solo Bruxelles, perché poi è stata inviata speciale più volte nelle differenti capitali europee. E, Maria Laura, magari un saluto ai nostri ascoltatori, qualche parola in più di presentazione. Buonasera. Presentazione di così, cioè incredibile. Una lunga presentazione, mezza trasmissione. Buonasera, allora mi introduco come viandante in questo viaggio. Che bello. Ci siamo incontrati e quindi possiamo continuare un pezzetto del nostro cammino insieme. Assolutamente. Proprio per magari iniziare già un attimo il nostro dibattito, come voi sapete, qualche giorno fa il Parlamento di Strasburgo, questo avveniva, quindi il nostro Parlamento europeo, votava una risoluzione sulla libertà di informazione. Questo riguardava non solo l'Italia, ma anche gli altri Stati membri. Fatto sta che la risoluzione non è passata, perché insomma si è detto che la libertà di informazione esiste. Per fortuna, meno male, che tante voci che si sono susseguite nell'ultimo tempo, per l'Italia in particolare e per altri paesi, poi capiremo insomma se esiste oppure no, in realtà è forse il modo di fare informazione che è cambiato, perché probabilmente i mezzi di comunicazione sono così tanti e svariati che tutti quanti oggi cercano di improvvisarsi, anche giornalisti, reporter, vedi un po' il moltiplicarsi di blog, di siti internet che trasmettono e inondano di informazione. Quanto poi tutte queste informazioni possono definirsi effettivamente notizie, questo probabilmente... Quello non è giornalismo, quello è qualcosa di diverso, cioè è una forma di comunicazione. Il giornalismo è un'altra cosa. Il giornalismo è informazione basata sui fatti, fatti che sono... devono essere assolutamente e incontestabilmente ricercati dai giornalisti. Cioè il giornalismo è un giornalismo di indagine e di ricerca. Il resto è comunicazione oppure il blog è una forma di comunicazione tra persone, ma non lo vogliamo chiamare giornalismo. Per quanto riguarda quello a cui ti riferivi prima, cioè il dibattito al Parlamento europeo, il dibattito era effettivamente, più che sulla libertà di informazione, è stato lanciato come dibattito sulla pluralità, pluralismo dei media. Ecco. E su questo in effetti bisognava puntare. L'hanno in un certo senso voluto indirizzare come dibattito sulla libertà di informazione in Italia, mentre ci sono anche altri paesi in Europa che hanno lo stesso dei problemi. E quindi c'è stato un voto contrario, anche se sono stati due voti di differenza. Sono due voti, infatti, perché erano due le risoluzioni comune. Quella che è stata presentata diciamo dal PPE, che ha ottenuto 297 voti favorevoli e 322 contrari e 25 astensioni. Poi invece c'era un'altra risoluzione, invece questa volta del PPE, insomma ci sono state tante. È quella depositata dai socialisti, dall'ALDE, dal Viale e anche dal gruppo degli indipendenti, che ha riscosso 335 voti favorevoli, 338 contrari e 13 astensioni. Ci sono tre voti di differenza. Esatto. Uno dei votanti poi ha detto di essersi sbagliato e quindi il voto è stato ritirato, quindi comunque due voti di differenza. Cioè, per questo quello che chiedeva il gruppo appunto ALDE e socialisti chiedevano che chiedevano di chiedere alla Commissione europea di varare una proposta di direttiva sulla concentrazione dei media. Era questa la richiesta. E la commissaria responsabile Reding aveva risposto in Parlamento che la proposta si poteva accettare se veniva centrata come nell'ambito del mercato unico, non dei diritti umani, della libertà e su questo, come quindi concentrazione dei media per quanto riguarda l'Italia. Questo era un argomento estremamente valido, perché in effetti era proprio una questione anche economica, non soltanto di diritti, però appunto per il momento è stata archiviata. In realtà, in effetti, quello che è accaduto è che queste due risoluzioni hanno avuto un maggiore eco soprattutto in Italia. Infatti, come diceva Maria Laura poc'anzi, il commissario per l'Unione Europea, il commissario per i media, Viviane Reding, ha sostenuto che in realtà l'Unione Europea ha poteri limitati nel campo della stampa scritta e che gli Stati membri hanno istituzioni proprie per risolvere eventuali problemi legati ai diritti fondamentali. Quindi il problema ovviamente non è soltanto un problema di diritti umani, ma ricorre a quello che, di cui parlavamo prima, che è proprio probabilmente la necessità normativa sul pluralismo dei media, che probabilmente potrebbe essere la chiave di volta per risolvere anche i problemi legati al mercato interno. Dovete poi in realtà sapere che è stata comunque c'è stato un vivace scambio di opinione da tutti i maggiori rappresentanti dei gruppi politici. Per esempio il presidente del gruppo PPE, Joseph Daul, ha condannato l'utilizzo del Parlamento quale forum per un dibattito nazionale, è sbagliatissimo questo, perché invece il Parlamento è un forum per un dibattito, non era un dibattito nazionale, era un dibattito che riguardava, hanno preso la parola numerosi parlamentari romeni, cechi, a parlare anche della situazione nel loro paese, quindi alcuni deputati, appunto questo che hai citato tu, Doll, erano in malafede spiegando che si trattava di una questione nazionale, non era soltanto, era la libertà di informazione in Europa. Però purtroppo, come sai, quando interviene la politica si riescono spesso a spostare i contenuti, sì, a livello anche demagogico. Tant'è che lo stesso Verhofstadt, invece, leader belga del gruppo ALDE, ha dichiarato che non dovrebbe essere negata l'esistenza di un problema. Il fatto che tre paesi dell'Unione siano stati classificati dall'organizzazione Freedom House come aventi media solo parzialmente liberi li preoccupa e quindi rende necessaria la richiesta alla Commissione di garantire il pluralismo dei media. Quindi, insomma, il dibattito vedo che ha comunque interessato le più alte personalità del Parlamento europeo. Tra l'altro, invece, la deputata olandese del gruppo Verde, Judith Sargentini, che magari potrebbe anche figlia di italiani, ha precisato che il tentativo di depennare questo dibattito dall'agenda è stato vergognoso. A causa di pressioni, i giornalisti italiani applicano l'autocensura e la democrazia italiana è diventata vulnerabile. Gli stati membri attuali, come quelli in via di adesione, dovrebbero rispettare, secondo la Sargentini, i criteri di Copenaghen. E interviene anche invece uno dei leader polacchi, Czarnecki, il quale invece sostiene che anche in Polonia il problema esiste, magari non è tanto noto, ma il problema c'è. Quindi invece, al contrario di quello che sostiene Joseph Daul, è importante parlarne proprio al Parlamento europeo. Però ovviamente spetta agli italiani, qui insomma interviene Czarnecki, di risolvere i loro problemi interni. Quindi bene sì il dibattito, va bene parlarne, però non strumentalizzare l'uso di alcuni problemi che riguardano il nostro paese e che vorrebbero essere risolti a livello europeo. Ma d'altronde credo che non ci arriveremo mai, perché d'altronde la stessa concertazione tra gli Stati membri e la Commissione europea ultimamente, ecco, non è che gode di buona fama, quindi insomma non credo che l'Unione europea avrebbe mai avuto effettivamente la capacità di intervenire, anche perché, come ben sappiamo, potrebbero esserci repliche abbastanza dure da alcuni vertici, quindi insomma credo che invece parlarne sia stato molto utile e che il problema resta, il problema è quello che la comunicazione oggi è diventata così importante che se ne fa sia un uso sia un abuso, poi regolare, regolamentare o cercare di giungere ad una conclusione, ahimè, diventa spesso difficile. E chissà se poi effettivamente esiste poi una vera libertà di informazione, se è mai esistita. Vania Laura, cosa puoi dirci in merito? E in Italia sempre di meno, però esiste, dovrebbe esistere, cioè esiste la possibilità di scrivere le cose come stanno, di dare le dichiarazioni e magari sentendo diverse fonti, ma la possibilità esiste e dovrebbe essere questo il modo di fare informazione, non cambiando i programmi o rinviando programmi perché c'è una notizia o un evento da comunicare in cui partecipa il Presidente del Consiglio. Questo non è informazione, questa è disinformazione. E cioè l'Italia oramai è diventata una abbastanza presa di mira, anche perché la situazione in cui il 90% delle informazioni attraverso la televisione viene gestito soltanto da una persona, è una situazione abbastanza anomala. Continueremo a parlare di informazione e questa sera abbiamo deciso di rendere omaggio ad Anna Politkovskaja, che come voi tutti sapete è stata purtroppo, possiamo dirlo, assassinata ormai 3 anni fa, il 7 ottobre 2006. E ci faceva piacere ricordare questa coraggiosa giornalista e ne parleremo con Andrea Riscassi, il quale è giornalista della RAI di Milano e ora infatti capo servizio proprio alla RAI. Andrea ci racconterà anche del suo cammino di giornalista, ci racconterà le ragioni che lo hanno spinto a dedicare così tanto tempo ad Anna Politkovskaja. Andrea infatti ha dedicato ad Anna addirittura un'iniziativa molto bella dal titolo Un albero per Anna, tant'è che dal suo appello è nata un'associazione Anna Viva che si occupa di diritti umani, di democrazia nell'ex spazio sovietico. E dopo una lunga attesa il comune di Milano, come immaginate, ha deciso di piantare, come richiesto da migliaia di cittadini, un albero proprio per la Politkovskaja nel locale Giardino dei Giusti. Per questo suo impegno Andrea è stato insignito della medaglia d'oro nella provincia di Milano, il premio riconoscenza 2008. Che non riesco a ballare, dammi spazio. Che non riesco a parlare, dammi spazio. Che non riesco a pensare, dammi spazio. Dammi spazio, dammi spazio. Qualcuno ne ha troppo, qualcuno zero. Mi serve spazio per esprimere un pensiero, un'idea. Non posso mica stare in apnea. C'è un traffico di macchine, una visita di uno solo. Non cerco di più di quello che mi può bastare. Un po' di spazio dove io possa ballare, mangiare, lavorare, parlare, dormire, fare l'amore. Dammi spazio, che non riesco a parlare. Come abbiamo accennato prima di questo suggerimento musicale dalla regia, Andrea quindi si occupa ormai da 3 anni di questa sua attività in favore dell'Anna Politkovskaja. Politkovskaja. E meno male che c'è George, il nostro linguista. Il 5 maggio 2009 è uscito il suo secondo libro, dedicato proprio alla giornalista. Anna è viva, storia di una giornalista non rieducabile. Sonda la casa editrice. Andrea. Sì. Puoi sentirci? Mi sento male, lontano, ma in qualche modo mi sento. Bene, benvenuto a Bruxellando. Grazie per avermi invitato. Allora, noi questa sera, come ti accennavo telefonicamente oggi pomeriggio, ci occupiamo del ruolo dell'informazione in Italia e in Europa. Ci faceva piacere però parlare con te di questo tuo secondo libro dedicato all'Anna Politkovskaja. Politkovskaja. No, scusa la mia pronuncia imperfetta. Ci faceva piacere sapere un po' la genesi di questo tuo percorso e i motivi che ti hanno spinto a dedicare così tanto tempo a questa attività in favore di Anna, a mantenere la memoria di Anna ancora in vita. Ma è iniziata un po' per caso, come la maggior parte delle cose che succedono nella vita, nel senso che non è stata pianificata. Io mi sono occupato, diciamo, nel passato di Est Europa, di Russia, di violazioni dei diritti umani, di movimenti indipendentisti e filo occidentali nell'ex Unione Sovietica. Quando stavo chiudendo il mio libro su questi argomenti è stata uccisa la Politkovskaja. Quindi mi ci sono trovato in mezzo. Poi dopo pochi mesi il fatto che non ne parlassi più nessuno mi è sembrato francamente surreale, perché è vero che dobbiamo essere nella società dell'internet, della velocità, però che dopo 6 mesi una giornalista, la più coraggiosa giornalista russa, venga assassinata nel suo appartamento e che il resto del mondo la dimentichi è una cosa che ai miei occhi gridava vendetta, per cui ho lanciato degli appelli e poi da lì, da quel momento non ne sono più uscito, diciamo, da questo circo. Leggevo tra l'altro che questa tua iniziativa è stata poi effettivamente sostenuta dal Comune di Milano. Quindi è stato praticamente piantato nel Comune di Milano, nel locale Giardino dei Giusti, proprio un albero in memoria di Anna, giusto? Sì, nel senso che il mio obiettivo iniziale è che ci fossero delle iniziative per ricordare la prima anniversario della morte, che quindi era 2 anni fa. Dopodiché, nel momento in cui si è creato un gruppo di persone, si è detto si va avanti, cerchiamo di ricordare in qualche modo, per cui è partita questa petizione per dedicare un albero nel Giardino dei Giusti del Comune di Milano. Anche qui c'è passato un anno e mezzo per ottenere questa cosa, che dovrebbe essere banale, perché se avessi chiesto di costruire un grattacielo a nome suo, forse avrei fatto prima una strada o qualche forma, diciamo, più remunerativa. Essendo un albero, alla fine poi non è sempre facile convincerli, però cioè, oltre a me, le iniziative che sono fatte in Italia per la Politkovskaja sono tantissime: strade a Ferrara, a Carrara, a Roma, per cui la sua memoria è ben viva nella nostra, diciamo, nella nostra comunità e non solo grazie a me, ovviamente. Beh, l'albero poi simbolicamente può significare tante cose, magari anche la cultura dell'educazione, come tu stesso sostieni nel tuo libro. Sul fronte della memoria, sul fronte, diciamo, della tradizione ebraica, del valore di questo albero con le radici di ispirazione catechiramentoria della scena israeliana, per cui è tutto in 16, non stiamo parlando di Shoah, non stiamo parlando di altro, però ci sono dei giusti tra le nazioni anche tra di noi. Secondo me la Politkovskaja era uno di quei giusti che vengono ricordati in Torah. Al Parlamento europeo a Bruxelles abbiamo chiesto noi giornalisti europei di dedicare la sala stampa del Parlamento europeo a Anna Politkovskaja. C'è stato l'anno scorso. E così è stato, infatti, ed è stato inaugurato, e adesso c'è il nome di Anna Politkovskaja sulla sala del Parlamento. Ed è divertente perché nei mesi scorsi, quando c'è stata la crisi del gas russo, e sono arrivati al Parlamento quelli di Gazprom e il ministro dell'energia russo, e dovevano fare una conferenza stampa, si sono rifiutati di farla nella sala stampa, l'hanno fatta in un altro luogo. Secondo noi, cioè, si sono rifiutati, l'hanno fatto altrove, ma secondo noi è perché la sala stampa aveva quel nome. Sì, perché c'è nell'autorità, ma anche in parte della popolazione, questo atteggiamento, dato che lei difendeva i diritti umani dei ceceni, alla fine viene considerata come una cecena, come se fosse una specie di amica di terra, cosa più lontana non c'è stata e diciamo più falsa non c'è. Però è passata questa cosa, che lei era un'amica dei ceceni, quindi in qualche modo era un'amica dei terroristi, quindi in qualche modo una terrorista anche lei. Non riescono a confrontarsi neanche con lei da morta, nel senso che anche su questo sono in difficoltà. In Italia abbiamo la stessa sensazione nei confronti di Enzo Biagi, che anche da morto continua a dare fastidio, tant'è che ogni tanto c'è qualche buon tempone che lo rievoca e che chiede conto di quello che ha fatto lui. Lui, come lei, non possono più rispondere, quindi è un po' da canaglie rimanersi direttamente a loro. Infatti. Il titolo, Andrea, Anna è viva, storia di una giornalista non rieducabile. Quale obiettivo ha? Se ha un obiettivo, oppure invece lo hai studiato semplicemente come messaggio educativo? Allora, l'intento è veramente pedagogico ed educativo, nel senso che Anna Viva è l'associazione che poi è nata intorno a questa memoria della Politkovskaja, si chiama Anna Viva, e quindi il titolo richiama un po' l'associazione, che appunto è nata da questa esperienza di persone che si sono ritrovate, diciamo, uscite da questo ideale legata alla memoria della Politkovskaja. Per cui la mia idea, che lei serviva dal punto di vista, diciamo, simbolico, è netta, nel senso che lei è diventata un'icona, e come tutte le icone vive a prescindere da, diciamo, dal suo apporto fisico, nel senso che se ne stiamo parlando anche noi, per cui ci sono persone che sono vive di cui si parla molto meno, e per fortuna meglio così. Per cui lei, da questo punto di vista, pensava che uccidendo il suo nome, la sua immagine, la sua forza si sarebbero propagate in questo modo. D'altronde anche i cinesi in Tibet hanno schiacciato la cultura tibetana, ma in qualche modo l'hanno espansa in tutto il mondo, perché una volta del buddismo tibetano, oltre al Tibet, non se ne conosceva traccia, mentre adesso i tibetani sono un po' ovunque. Anche con la Politkovskaja hanno fatto così: qualcuno ha commesso un errore di valutazione uccidendola, non l'hanno messa a tacere, l'hanno resa ancora più viva nelle persone che credono in queste cose, che credono ai diritti umani. Andrea, ancora una domanda. Cosa racconti proprio esattamente? Io purtroppo confesso di non aver avuto l'opportunità di leggerlo, ma qual è il taglio che tu hai deciso di dare al tuo libro? Quali sono gli aspetti più importanti che racconti? Ma fondamentalmente analizzo il suo modo di affrontare giornalisticamente la realtà che andava affrontando, quindi ho diviso per argomenti la Russia, la Cecenia, Putin, Kadyrov, ho fatto una specie di percorso ragionato sul suo modo di fare informazione, e poi analizzo anche il suo modo di fare giornalismo, che era un modo poco, che non si usa più né a Mosca, né a Milano, né prima a Bruxelles, cioè di continuare, di andare avanti, di non mollare, di fare domande, di insistere, di essere tenaci. Ecco, a questo mondo la tenacia si è un po' persa, e anche per i giornalisti che tendenzialmente un po' si stufano, vogliono un'altra cosa. Lei su questo era 1001 rispetto alla maggior parte di noi, e insisteva, quando prendeva una cosa la portava fino in fondo, non la lasciava mai a metà. E questo, secondo me, personalmente, dato che adesso ho la fortuna di insegnare giornalismo, è esattamente quello che un giornalista dovrebbe fare. Poi non tutti ce la fanno, e non tutti dobbiamo diventare come la Politkovskaja e farci uccidere nell'ascensore di casa, però tra essere ignavi ed essere tenaci, secondo me c'è una buona, un buon range di posizioni che si possono scalare. Tu sei anche tutor per la formazione TV presso la scuola di giornalismo Walter Tobagi dell'Università degli Studi di Milano. In questa tua attività, che presumo essere, se non quotidiana, quasi, cosa ti colpisce dei giovani giornalisti di oggi, e quali sono i consigli che potresti ancora elargire a giovani giornalisti questa sera in ascolto della nostra trasmissione? Cosa mi colpisce ancora di Anna, della forza che ha lei? No, la mia domanda è, tu sei anche un tutor, quindi insegni ai giovani giornalisti, sulla base della tua esperienza, sulla base di questo libro dedicato proprio anche ad Anna, cosa ti colpisce oggi dei giovani ragazzi, dei giovani giornalisti, o comunque di coloro i quali un giorno saranno giornalisti come te, come Anna, come Maria Laura, qui in studio con noi? Pensi che ci sia ancora magari questo coraggio, questa voglia di far emergere la verità, l'informazione, la notizia, o c'è più voglia di fama, quindi scrivere per apparire, per diventare famosi, essere un famoso caporedattore della carta stampata, o un giornalista magari televisivo che un giorno si ritrova a essere magari anche eurodeputato? Non so se c'è l'obiettivo della fama, sicuramente tanti vogliono fare i giornalisti, e purtroppo, dato che il mercato si è ristretto, tanti lo fanno a ogni costo, e questo è sicuramente un elemento negativo. Lei insegna ad essere, la parola che ha detto è ormai abusata, però insegna per chi la segue ad avere un'attenzione verso i più deboli, quindi ad essere comunque un giornalismo contro il potere, contro i ceceni che rapiscono delle persone in teatro, contro il presidente che manda i soldati in guerra per farsi propaganda, contro un presidente che usa le sue milizie per tagliare, per dirimere le crisi in maniera bellica. Lei si schiera sempre dalla parte dei più deboli, e va a raccontare sempre le storie più minimali, va a cercare i dettagli. Non racconta la Cecenia, racconta i singoli ceceni, e sui singoli ceceni racconta delle storie pazzesche che che a nessuno interessano, perché comunque non fanno notizie. Va a cercare le storie, e sulle storie costruisce, diciamo, ribalta la prospettiva giornalistica di fare la grande storia. Fa piccole storie che invece sono rappresentative di una grande... Questo è il vero, e questo è il vero giornalismo, infatti. Chi legge, i suoi lettori sono coinvolti, perché si sentono messi a confronto con storie che potrebbero capitare a loro, ecco. Questo è l'elemento centrale, cioè ormai sono abituati che se non succede a te chi se ne frega. Lei su questo insisteva, cioè dice non è che perché non siete ceci, da quando non vi deve fregare, perché poi si va avanti, che poi arriveranno anche al tuo, quando arriveranno al tuo nome poi non ci sarà più nessuno che ti difende, dicevo, la famosa storiella religiosa. Comunque io credo che hai perfettamente ragione in quello che sta dicendo, e credo che lei abbia fatto scuola anche lei in Russia. Io mi trovavo a Mosca in occasione del primo anniversario dell'uccisione di Anna Politkovskaja, e allora abitavo abbastanza vicino a dove era il suo appartamento. Sono andata lì e mio figlio mi ha detto: stai attenta perché magari è pieno di polizia. La polizia c'era, però stavano in disparte, e c'erano un gruppo piuttosto grosso di gente, c'erano molti giovani, ognuno alcuni avevano in mano un fiore. Sono andata da una ragazza, gli ho chiesto: ma non hai paura di stare qui, che la polizia ti può fare qualcosa? E lei mi ha risposto solo questa frase: Anna non ha avuto paura, io non ho paura. Cioè, sono rimasta molto colpita, cioè se ci fossero tanti di questi giovani sarebbe il problema delle libertà di stampa sarebbe risolto, non ti pare? Sicuramente. Andrea, prima di salutarci, perché come sai il tempo è tiranno e il radio in particolar modo, se dovessi consigliare un giovanissimo studente della facoltà di scienze della comunicazione e indicargli delle regole del buon giornalismo, cosa gli diresti? Delle regole? Regole per modo di dire, poi magari semplicemente dei suggerimenti, semplicemente... La regola è di non rispettare le regole, questo è fondamentale, perché i ragazzi di prima giorno hanno detto: qualunque regola vi venga detta, voi cercate di rispettarla, perché questo è l'elemento centrale. C'è un famoso che ricorda che quando sono cadute le Torri Gemelle c'erano le indicazioni che alla gente dicevano: non abbandonate il palazzo, vi stanno venendo a salvare. Chi quel giorno non ha rispettato le regole si è salvato la vita. Quindi la prima regola è violare le regole, far indispettire il caporedattore, il direttore e tutte le autorità, e poi essere furiosi, non smettere mai di fare giornalisti. Quelli che dicono che fanno giornalisti e alle 5 staccano, fanno cadere la penna, francamente fanno un altro mestiere che è legittimo, interessante, ma fanno un altro mestiere. E quelli che servono il potere, anche quelli fanno un altro mestiere che si chiama l'ufficio stampa. Quello è ben altro. Gli altri sono giornalisti con varie gradazioni. Cosa bolle in pentola? Cosa prevedi per il prossimo futuro? Dove? Nel mondo? In Italia, vivo giorno per giorno, non so cosa faccio domani, ma cosa succederà da comandare mi sembra un po' difficile da raccontare. Mi piacerebbe, ci sono parecchie cose di cui vorrei occuparmi, però chiaramente il tempo è limitato per tutti, quindi le possibilità, poi per la Rai vado molto meno all'estero adesso, per cui alla fine, ma spero un giorno di poter mandare i miei studenti in giro per il mondo a vedere le cose che non riuscirò a vedere. Bene. Sì. Io avevo una domanda. Adesso mi sento. Ciao Andrea, avevo una domanda per te. Dunque, Maria Laura mi ha informato, e io ammetto la mia ignoranza, perché veramente non ci avevo fatto caso, che sono morti altri 5 giornalisti in Russia. Sono stati ammazzati, sono morti perché erano uccisi. E quindi credo che ci sia ancora un forte problema in Russia. Cioè, da un lato è vero quello che tu hai detto, che uccidendo Anna, Anna si è sparsa, la sua voce si è sparsa per tutto il mondo, però credo che ci siano ancora delle forze pesanti in Russia che sono contro i giornalisti. Mi sbaglio? Sì, il problema della libertà di stampa in Russia è drammatico, cioè al di là di ogni possibile immaginazione. È anche vero che alla maggior parte della popolazione non è un tema, cioè per il più non è un tema molto sentito, questo va detto. E anche per quello, cioè il problema è brutto dirlo così, ma non è che ammazzano i giornalisti, perché quello purtroppo succede lì, succede in Sri Lanka, succede in Messico, e che dalle altre parti, adesso ho fatto degli esempi sbagliati, però diciamo da altre parti si indaga su questi omicidi, cioè ci sono dei poliziotti che indagano, ci sono dei magistrati che arrestano, ci sono dei giudici che condannano. Ecco, tutto questo ad esempio in Russia non c'è, c'è un paese super controllato, super diretto da rappresentanti del KGB, governato con poliziotti ad ogni angolo di strada, uccidono un giornalista a Mosca, alla fine chi ammazza non viene neanche arrestato, rapiscono Natalia Estemirova a Grozny, la rilasciano assassinata a Nazran e nessuno indaga, uccidono l'avvocato Markelov e la giornalista che stava con lui, Anastasia Baburova, a 1000 passi dal Cremlino, nessuno indaga. Ecco, questa è la cosa surreale, cioè che uccidono i giornalisti, ma che uno Stato così grande e importante, che fa parte del G8, del G20, del G30, che siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, poi non neanche riesca a individuare gli assassini dei giornalisti, che comunque vanno a minare la libertà di stampa nel paese, francamente lo trovo surreale, e trovo surreale che il mondo tace semplicemente perché questi hanno gas e petrolio e ce lo vendono a caro prezzo. Diciamo che questo, insieme il fascino e purtroppo in casi estremi il prezzo da pagare di questo quarto, quinto, sesto, ottavo, nono, decimo potere chiamato comunicazione e informazione. Andrea, noi di Brussellando ti ringraziamo, speriamo di continuare a ricevere ancora tue notizie. Insomma, sapete chi è stato, comunque fatevi traviare da altre storie. Ti auguriamo ovviamente tutto il meglio, veramente un grande in bocca al lupo per tutte le tue attività presenti e future, e chissà, magari ci ritroveremo per una presentazione del tuo libro qui a Bruxelles. Volentieri, io sono sempre qua, per cui magari ci ribecchiamo di sicuro. Va bene, allora un'ottima serata, e potrai riascoltarti. Grazie. Sul nostro blog già tra un paio di giorni, potrai riascoltare la trasmissione di questa sera. Perfetto. Va bene? Grazie mille, buona serata. Buona serata, a presto. Buona serata. Ciao. Fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita, l'ha ricompensato il presidente, lo sa. Ditemi quando è il momento. Ora. L'imbrangolo. grazie. Sì, abbiamo come ospite Umberto Eco, ma io non lo sapevo. Non, lo so. Non è così, no? E vabbè, abbiamo cambiato un po' tono, mi sa. Anche se non andiamo molto lontani dal tema, dato che ho visto che discuteremo con giornalisti stasera, pensavo di evocare un paio di quei giornalisti che si sono dedicati anche a scrivere dei libri che sono, cioè, magari parzialmente reportage, ma parzialmente anche dei romanzi. E ovviamente io conosco soltanto gli esempi più ovvi dal dall'Italia. E un esempio assolutamente ovvio sarebbe Oriana Fallaci, che mi ha proprio impregnato mi si è impregnato nella memoria quando ho prima letto il Se il sole muore, che è un vecchio libro oramai, è degli anni 60, che è un viaggio personale fra il mondo delle tradizioni, del passato personale, e fra una nuova era, quello del viaggio nello spazio, degli orizzonti inconcepibili verso cui ci porta. E tutto ciò attraverso degli incontri fatti con astronauti ed altri personaggi che ruotano attorno al mondo dello spazio, e anche questi anni eroici del viaggio nello spazio, quando tutto sembrava possibile proprio a portata di mano. Mi ricordo ancora vivamente, per esempio, la scena in cui lei fa una camminata sulle strade di una delle grandi città americane, credo che sia stato San Francisco, non ne sono sicura. Siccome tutti usano la macchina oramai, diventa un po' sospetto fare una camminata, e con ciò assistiamo ad una scena quasi di fantascienza, un interrogatorio del pedone da parte della polizia, che chiede: ma lei perché cammina? Non ha una macchina, eccetera, eccetera. Mi ricordo vivamente anche del momento in cui lei realizza che la rosa sopra la sua TV non sia vera ma sia di vetro, e quando invece camminando fuori realizza che l'erba sia di plastica. Tutto ciò per causa dell'inquinamento e del peso della manutenzione, diciamo. Presumo che oggigiorno, con le nostre sensibilità ambientali, questo sia cambiato, almeno lo spero. E mi ricordo vivamente anche dell'incontro di lei con Ray Bradbury, il sognatore di futuri un po' alieni per la specie umana, che fanno rabbrividire anche la giornalista, e che mi hanno fatto pensare anche ad un altro libro che ho letto, che è di un autore giapponese che si chiama Abe Kobo, di cui conosco soltanto il titolo inglese, che si chiama Inter Ice Age 4. E comunque in quel libro si tratta del fatto di aver realizzato che il futuro dell'umanità finirà nel caso se si rimane sulla terraferma, quindi che si dovrà spostarsi verso una società che vive sott'acqua. E ovviamente questa è una cosa inconcepibile per la mente umana, di accettare che il futuro non sia quello che viviamo noi, quello che possiamo accettare noi, ma che debba andare in una direzione completamente diversa. È esattamente lo stesso dilemma a cui si affaccia anche la Fallaci in questo romanzo, anche se non in una forma così così estrema, diciamo, e che però nonostante i suoi sentimenti cupi rispetto a questo progresso inarrestabile, nella sua anima alla fine vince la guerra, è vinta dalle stelle, possiamo dire. Alla fine si commuove guardando il lancio di un razzo e accetta il prezzo del progresso. Quindi è un percorso interessante, come anche in altri suoi libri ho trovato dei pensieri belli, di uno stile personale molto, molto particolare, per esempio anche quello di Un uomo, che non è altro che il resoconto della sua relazione con Aleko Spanagoulis, un lottatore per la libertà del suo paese, della Grecia, per la liberazione sotto della dittatura di Colonnelli. Del colonnello, sì. Diciamo. Colonnelli. I colonnelli, erano vari colonnelli. Sì. Panagoulis non è un uomo semplice con cui vivere, cioè non è uno che andrà a fare le spese, non è uno che mette su famiglia, è piuttosto uno che subordina tutto alla sua lotta, che vuole una compagna, un assistente. Quindi è una relazione difficile, e la Fallaci fa sentire benissimo questa tensione sentimentale di fondo, ma anche la sua ammirazione per la lotta di Alekos, che pagherà alla fine con la vita per il suo sogno. È un bel libro, ve lo raccomando. Dei libri recenti della Fallaci non vi posso dire niente, lo so che sono attorniati da tanta polemica, però non le ho lette, non posso dirvi niente. Invece vi posso dire qualcosa di un suo diciamo compagno di viaggio, ma anche un po' antagonista, di Tiziano Terzani, che invece ha scritto un libro Lettere contro la guerra, in cui proprio a volte risponde anche a Oriana Chiara Fallaci, però argomentando per la pace invece che per la rabbia e per l'orgoglio, diciamo. Tiziano Terzani, infatti, è un altro giornalista che ha spesso realizzato un libro in base ai suoi viaggi, alle sue esperienze, che sono state vaste, per esempio anche alla fine del regime comunista nella Russia ha realizzato un libro di intitolato Buonanotte signor Lenin, che sarei curiosissima di leggere, purtroppo fino adesso non ci sono riuscita. Invece ho letto un altro suo libro che si chiama Un indovino mi disse, in cui si tratta di un anno di viaggio, di un anno di lavoro normale, diciamo, di inviato in Asia specialmente, che lui fece soltanto in treno e in nave, comunque con mezzi di trasporto per terra. E la ragione per cui ha fatto questo esperimento era comunque un po' strana, cioè un indovino gli disse che sarebbe meglio fare attenzione perché magari precipiterebbe con un aereo durante quell'anno. Ovviamente lui ha detto, non è che lo prendo veramente sul serio, ma sarebbe un esperimento interessante, e parte di questo esperimento era di visitare ogni indovino di una certa fama locale per vedere cosa dice, e di questa esperienza è nato questo libro che è molto interessante, cioè ci sono anche le situazioni, c'è un misto di realtà anche molto forte, di guerre, di conflitti, di problemi, e dall'altro lato c'è questa esperienza spirituale che lo avvia sempre verso la ricerca di una sua patria spirituale che poi lui troverà in India, se non mi sbaglio. Non dimentichiamo neanche L'ultimo furore, perché anche Stieg Larsson, lo scrittore dei tre libri di Millennium, era un giornalista, e infatti era anche un giornalista abbastanza uno di quelli che proprio investigativi, che andava dietro le sue storie, e questo si sente tantissimo anche nei suoi libri. Cioè uno può dire che sono soltanto dei thriller, ma secondo me si sente tantissimo questo tocco della realtà, della verità dietro tante delle sue parole e delle sue situazioni. Quando scrive di frode finanziaria sentiamo che stiamo ascoltando qualcuno che sa cosa dice. Quando ascoltiamo, quando leggiamo sul traffico delle donne, anche là sappiamo che tutto questo, quel che stiamo leggendo, ha un granello molto importante di verità, ed è magari anche per questo che le parole di questo libro non ci lasciano facilmente dopo averlo letto. Forse è questa la sua forza, e magari è questa la forza che sta dietro i libri scritti da giornalisti in genere. Un vero giornalista ha qualcosa in mano che ci può dare e che ci rimane. E, comunque sarei contentissima di leggere ancora quindi libri di giornalisti scrittori, se avete raccomandazioni io accolgo. Io ti raccomando di leggere Kapuscinski, allora, è un altro grosso giornalista scrittore ed è effettivamente estremamente interessante. Imola, io invece ti raccomando Paolo Rumiz, non so se lo conoscete, ex corrispondente del Piccolo di Trieste, collabora per La Repubblica. E ha scritto diversi libri di inchieste, soprattutto sull'Italia, viaggi, aneddoti, molto interessanti. Conosciamo benissimo sia Kapuscinski che Paolo Rumiz. L'ho scritto per me, non per te. Ci vogliono altre raccomandazioni. Cerco nei sogni e non mi ritrovo più. Non apro gli occhi, penso ciò che so. Amiche, cari amici, bentrovati, Bruxellando, Radio Alma. Non potevamo salutarci questa sera prima dell'abituale sintesi degli eventi che avranno luogo a Bruxelles questa settimana. Questo è un appuntamento al quale non invitiamo né George né Dani M, perché la ballade des sorcières. Ebbene sì, per tutte le streghette all'ascolto, appuntamento alle ore 17 il 31 ottobre alla Rue des Parmes 69. Poi ci sarà il percorso e quindi la partenza stessa di questa passeggiata tra streghe fino al museo, che è il Museo d'Art Fantastique di Bruxelles, che si trova alla Rue Américaine a Saint-Gilles. Alle 19 ci sarà un sortilegio, udite udite, un sortilegio che però sarà effettuato da un cattivissimo streghetto. Posso dire streghetto invece di mago? È di streghetto. Streghetto, questo streghetto che lancerà i suoi sortilegi. Chissà che cosa regalerà alle streghette presenti. Ed infine, tra le 19.30 e le 21, ci sarà l'abituale Halloween Festival, proprio al Museo dell'Arte Fantastica come lo scorso anno. Prezzo unico, 6 euro per partecipante. Per quanti volessero saperne di più, maisonbizarre.be. Vi ricordo, 31 ottobre dalle 17 alle 22. E visto che stiamo parlando delle streghe, quindi dell'altro mondo, beh, c'è anche un altro mondo, fra i tanti mondi possibili, quello del teatro delle marionette cinese. Al Beaux-Arts, da domani sera fino a domenica, beh, la Cina non ha forse il suo Guignol, la sua Pulcinella, però ha il suo Sun Wukong, che è un re scimmia con dei poteri magici. Come, tu non lo conoscevi, George? Che cosa? Il Sun Wukong, la scimmia. Sun Wukong, c'è, cioè, come sì, no? Sì, notissimo. Famosissimo, sì, arci noto. Bambini, tutti, no? Bambini. Tutti i bambini conoscono. In Belgio soprattutto, no? E vabbè, e comunque, signori, se lo volete, andate al Palais, no, che ho detto? Beaux-Arts, scusate. Beaux-Arts. Al Palais de Beaux-Arts, alle marionette cinesi, fantastico. Sempre al Beaux-Arts, sempre nell'ambito di Europalia, come sapete quest'anno dedicata alla Cina, abbiamo Beaux-Arts Architecture, che invita un architetto apparentemente molto famoso in Cina, Wang Shu e Liu Wenyu. Pare che ci sarà effettivamente la possibilità di ammirare un altro stile di architettura che invece è molto in voga in Cina. Prima parlavamo del mito, pare che proprio queste costruzioni siano abbastanza aleatorie, persino effimere. Tradizione, modernità, spirito critico, riciclaggio e spontaneità sono le parole chiave del loro lavoro. Quando? Mercoledì 28 ottobre dalle 10 alle 18 presso il Palais des Beaux-Arts a Rue Ravenstein a Bruxelles. Datevi una mossa, perché fino al 14 novembre, quindi solo 15 giorni, c'è la Fiera Internazionale dell'Arte Latinoamericana, dove all'Espace Vallonie a Rue Marchaux-Herbe a Bruxelles, sì, ma sempre a Bruxelles ovviamente, l'ingresso è gratuito, quindi secondo me vale la pena approfittare, non tanto per la gratuità, ma quanto perché ci sono delle cose estremamente interessanti. Si chiama Etnia 2009, la fiera, e insomma un po' di arte, un po' di sole latinoamericano in Europa. Secondo me vale proprio la pena. 110 artisti, pittori e scultori di 20 paesi latinoamericani. Un enorme sforzo che vale la pena di essere premiato. Ritorna il cinema italiano, il cinema Le Stocchelle, alle 18 e alle 20.15, il 29 ottobre, Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini del 2007. Tutte le informazioni sui film annunciati sono disponibili sul sito sintesi-cinemaitalien.be e sul blog cinemaitalianobruxelles.cinebelblogs.be. E per i bimbi a Flagey, da quando? Il 28, cioè domani alle 4. Ci vi chiedete perché? Perché qui in Belgio, come sapete, i bambini non vanno a scuola questa mercoledì. Settimana. Perché? Ma anche questa settimana è perché? Vacanza. Comunque, beati loro, io invece andavo sempre a scuola tutti i giorni. Qui invece qui siamo in Belgio e a Flagey c'è la Petite Dame, è un regalo di poesia. La Petite Dame è un festival di mimica, con dei gesti di una rara intensità, una finestra aperta su un mondo magico dove si mescolano personaggi clowneschi, manipolazione d'oggetti e musica vivente, con Ivan Ferré e Pierre Saïs, per i bimbi, domani alle 3 a Flagey, lo studio 1. Invece, per quanti come noi amano l'improvvisazione, è prevista il 18° mondiale di improvvisazione teatrale dal 29 ottobre fino al 7 novembre 2009. Il mondiale avrà praticamente itinerante, quindi si svolgerà a Louvain-la-Neuve, a Bruxelles, a Namur, a Mons, Gembloux, Fleurus, Chenet, Arlon. Per quanti volessero saperne di più, visitate il sito www.fbia.be. Sì, Daniele Regia mi sussurra che abbiamo pochissimi secondi. Al volo, per ricordarvi, l'Accademia Bizantina, sotto la direzione di Stefano Montanari, con la partecipazione straordinaria di Topi Letipu, Sandrin Piao, l'Accademia Bizantina sarà al Palais des Beaux-Arts giovedì 29 ottobre alle 20. Ed infine il Festival delle Libertà, perché sapete che da qualche giorno, cioè dal 22 ottobre, quindi da qualche giorno, il Festival delle Libertà fino al 31 ottobre ci racconterà 40 film internazionali inediti in Belgio. Ne parleremo l'anno prossimo, Festival delle Libertà, poi beh, per quanti volessero saperne di più. Non ce l'hai fatta, ti hanno interrotto sul più bello. Ventuner, dovevi guardare. No, no, non l'abbiamo interrotto, noi stiamo andando avanti. Ah, ragazzi, siamo in no, diretta? Sì, Ventuner, Ventuner. Non avrei mai potuto interrompervi. Festa delle Libertà è, insomma, è molto noto, penso che tanti abbiate potuto anche vedere i vari Deplian affissi un po' dappertutto, anche in metropolitana. George, prima di salutarci. Beh, insomma, mi metti davanti questo diciottesimo... campionato mondiale. Questa sarà per stuzzicare la tua attenzione. Tu vai a fare la scimmia a Guadongla. È fermo, perché c'è l'Italia che gioca. C'è l'Italia, il Belgio, la Francia, il Quebec. È una nazione. Non so, il Quebec? Pare è che una sia, nazione il Quebec? Pare che sia sempre più indipendente. Che vuol dire pare? È perché c'è ancora molto diatriba, un po' come la Vallonia e... Vive le Quebec. Vive le Quebec. È una nazione improvvisata. Vive le Quebec. È un bellissimo paese perché, come, esattamente come il Belgio, c'è la capitale che è divisa. Esatto. A metà. Metà è francofona. Ma metà c'è anche un'altra cosa che accomuna Bruxelles. Vero, Maridì? No, c'è qualcosa che accomuna Bruxelles? Ci sarebbero tantissime cose, a partire dal simbolo della regione bruxelloise, che è lo stesso simbolo della regione Quebec. Quebec, comunque, come capitale a Quebec. Invece poi il Canada a Ottawa. Montreal. Sì, esatto, c'è Montreal. Quebec. La capitale è Quebec. Sì, ma è una provincia dello Stato, è Ottawa, della nazione. Sì. Poi Quebec invece è la provincia del Quebec. Che dici? Quebec! Quebec! In effetti Quebec ci vorrei tanto andare. La parte antica della città, Quebec, è su un promontorio che dà sul fiume San Lorenzo. Bravo. Ed è molto bello, molto occidentale, cioè molto europeo. Uno si apre gli occhi e dice... Ah, qui siamo in Europa, invece no, si è a Quebec. Poi fa circa 500 metri, scende e è in America. Quindi, insomma, e non ce ne voglia nemmeno San Lorenzo. Anche Montreal, la zona del porto, diciamo che è molto, molto europea. Invece il resto Giorgetto. È abbastanza... Ma comunque, la finale quindi ci sarà sempre a Bruxelles il 7 novembre al Cirque du Soleil, credo. Al Cirque Royal. Ah, al Cirque Royal, sbucato fuori il Cirque du Soleil. Ebbene, a fine di una lunga voglia di circo, sì. C'è l'altro, c'è il circo di Buglione da qualche parte, penso fino al 7 dicembre. Sì. Cari amiche e cari amici, l'atmosfera di Bruxellando, ringraziamo Maria Laura Franciosi, nostra ospite qui questa sera in studio, Andrea Riscassi in diretta telefonica da Milano, ovviamente i preziosissimi suggerimenti di Fiordaliso per l'angolo del libro, la regia immancabile, precisissima di Dani M, ovviamente i contributi abbastanza fuori onda di tanto in tanto di Maridì e di George Dorà. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per tante nuovissime sorprese. Sono due gli ospiti in studio martedì prossimo. Aia. A prestissimo, a martedì. No, stavo guardando questa cosa qua. Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.